bogum. Bogum, bogum, bogum, bogum. Caro Babbo Natale, non ci sentiamo da parecchio. Comunque lo stesso, adesso prestami orecchio, una richiesta. E se ti resta tempo, senti, anche perché mi devi ancora un big gym, una pianola a buon tempi. Non ho risentimenti, ma tuo creditore resto. Dunque ho un pretesto per richiederti un gesto. Fallo in sesto di radio, TV a Natale. Dirigilo tu e fai qualcosa di speciale. Non il solito mix dei puffi di Asterix con la cantilena di Cristina Ravena. Ridammi furia, Nico Fidenco, uccidi puffi. Voglio vedere un incontro di box fra Tyson e Bossi. Voglio che i personaggi di Beverly Hills abbiano tutti bisogno del Clerasil. Voglio vedere la Cuccarini con un mini bikini per un martini, sentendo Tocca qui, cantata da Masini. Perché è Natale, ma io non ci sto dentro. È Natale, è Natale, è Natale, ma io non ci sto dentro. È Natale, è Natale, è Natale, ma io non ci sto dentro. È Natale, è Natale, è Natale, ma io non ci sto dentro. Sono già due mesi che sento odore di mandarino e di aghi di pino e ne ho la nausea. Pubblicità del panettone senza pausa, assediato da nevicate di mandorlato. In cucina mia madre chiusa già da un mese, poverina, si sbatte di brutto lavoro come un somaro albanese. Ha fatto tra l'altro anche 8 kg d'arrosto. Nel miglior dei casi mi trovo a mangiare gli avanzi fino ad agosto. Mi sento indisposto, sarà perché ho mangiato caramelle sotto costo. Piuttosto faccio posto nello stomaco un bicchiere di peanut, mentre lo bevo mi atteggio come il tipo dello spot. C'è l'off-bot in televisione, dannazione. Adesso posso dire addio alla mia digestione. Cambio canale, fatale, appare il telegiornale che fra una guerra e l'altra mi fa gli auguri di Natale. È Natale, è Natale, ma io non ci sto dentro. È Natale, è Natale, è Natale, ma io non ci sto dentro. È Natale, è Natale, è Natale, ma io non ci sto dentro. È Natale, è Natale, è Natale, ma io non ci sto dentro. Da me non è mai venuto, forse perché il camino in casa non ce l'ho mai avuto. Forse non riesci a tirare sui tetti perché ci sono troppe antenne. Forse gli han chiesto il superbollo sulle renne. Forse ha paura di qualche scippo, magari afflitto perché lo scambiano per il gabibbo. Ma per me da qualche parte in Equatore, che se la vive da nababbo coi diritti d'autore. Suona il campanello, è arrivato prete benedire. Passa ogni stanza, bagna le pareti d'acqua santa. Guarda me che sono sveglio da poco e dice che per gli esorcismi passa dopo. Lo congedo con flemma, mi viene in mente il dilemma. Se il Natale che viviamo è cristiano pagano o come quello americano con le letterine dei bambini. Ma non a Babbo Natale, ma ai grandi magazzini ed è Natale. Perché è Natale, ed è Natale.